La semplificazione burocratica è la grande rivoluzione che ci aspettiamo e che, insieme alla riduzione della pressione fiscale, è in testa alle aspettative dei nostri imprenditori. Ed è per questa ragione che condividiamo ed apprezziamo la rivoluzione liberale proposta in questi giorni dal Governo. Misure straordinarie per la libertà d'impresa che prevedono, anche attraverso la modifica dell'articolo 41 della Costituzione, la sospensione, prima sperimentale e poi a regime, delle autorizzazioni per le piccole e medie imprese, la ricerca e le attività artigiane. Lo ripetiamo da anni: liberiamo l'impresa dai lacci e dai lacciuoli della burocrazia. Recuperiamo questo grave ritardo rispetto all'Europa, eliminando i controlli ex ante sull'attività d'impresa a favore del rafforzamento dei controlli pubblici ex post, così come avviene in moltissime democrazie liberali.